English 24. Buonasera da Marta Cagnola e da Giulia Crivelli. Un personaggio che noi amiamo tantissimo, torniamo a parlare di lui, anzi torniamo a sentirlo parlare. Questa settimana ha parlato ad Austin in Texas in un festival musicale molto importante. Lui è il boss, Bruce Springsteen. In questo discorso ha dato dei consigli ai giovani musicisti, quindi io andrei subito a sentire cosa ha detto ai giovani musicisti Bruce Springsteen. So, rumble, young musicians rumble. Open your ears. And open your hearts. Don't take yourself too seriously. And take yourself as seriously as death itself. Don't worry. Worry your ass off. Have ironclad confidence, but doubt. It keeps you awake and alert. Believe you are the baddest ass in town. And you suck. Allora, tante risate e anche qualche parolaccia. Dobbiamo tradurla con garbo, ma dobbiamo insomma far capire cosa ha detto il boss. Comunque, il primo invito è proprio a questo rumble, young musician rumble, perché lui chiaramente qui si parlava idealmente ai giovani musicisti, a coloro che magari sanno di voler far musica per tutta la loro vita, e quindi dicevo questo rumble è un'incitazione a letteralmente girare come trottole, muoversi, fare scintille, ecco, fatelo, in qualsiasi cosa voglia dire per voi, fatelo. Poi vabbè, aprite le orecchie, aprite il cuore e poi dà due consigli opposti tra loro, ma insomma c'è un perché. Queste dicotomie del boss sono bellissime. Allora dice don't take yourselves too seriously, yourselves, quindi al plurale, I don't take myself, but we don't take ourselves, plurale, quindi non prendetevi troppo sul serio. E poi, take yourselves as seriously as death itself. Questa è una, noi non l'abbiamo in italiano questa espressione, ma in inglese è abbastanza comune, cioè la cosa più seria che c'è è la morte. Ecco, allora prendetevi sul serio come prendete sul serio la morte e conciliate queste due cose. E poi un'altra dicotomia, e qui con una parolaccetta, insomma. Cioè. Sì, qui è anche qui un'espressione che però ass letteralmente è lato B. E quindi prima dice don't worry, quindi non preoccupatevi, e poi in realtà worry your ass off. Questo mettere un verbo e poi your ass off vuol dire fare qualcosa in modo esagerato, non so da dove venga, però appunto in questo caso è preoccupatevi in modo esagerato, ma potrebbe anche essere laugh your ass off, ridete in modo esagerato, quindi ed è un modo, sì, letteralmente un po' volgare, perché di lato B sempre si tratta, però anche molto una parolaccia, insomma, molto gentile, non di quelle strong. E ancora poi un bivio che lui suggerisce ai giovani musicisti, quindi have ironclad confidence, che non è confidenza ma sicurezza, quindi abbiate la sicurezza di un ironclad, di una corazzata. E poi però, doubt, però conservate sempre il dubbio, coltivate il dubbio, but doubt. Perché? Perché il dubbio? Because it keeps you awake and alert, perché ti tiene sveglio, ti tiene vispo, ti tiene proprio alert, sapete come i news alert che ci arrivano sul telefonino, cioè ci avvertono di qualcosa, state sempre allerta. E poi li fa ridere tutti. Però quindi coltivate da believe you are the baddest ass in town. Qui di nuovo ass, modo scherzoso di dire lato B, il più baddest, nel senso letteralmente il più cattivo che c'è, perciò il più forte, il più figo, potremmo dire, ecco. Crediate di essere il più figo che c'è. But you suck. E suck letteralmente vuol dire succhiare, ma quando tu dici che qualche cosa sucks, oppure you suck, vuol dire fai schifo. Ma sentiamo ancora come procede Bruce Springsteen. It keeps you honest. It keeps you honest. Be able to keep two completely contradictory ideas alive and well inside of your heart and head at all times. If it doesn't drive you crazy, it will make you strong. And stay hard. Stay hungry and stay alive. And when you walk on stage tonight to bring the noise, treat it like it's all we have. And then remember, it's only rock and roll. I think I may go out and catch a little black death metal. Thank you. Allora, il boss spiega in realtà perché, quello che abbiamo sentito insomma nel primo estratto, perché lui diceva, consigliava sempre due cose opposte. È un metodo, è il metodo Bruce, quindi dice questo fare così, it keeps you honest, lo ripete due volte, ti mantiene onesto, onesto con te stesso, perché to be able to keep two completely contradictory ideas alive and well inside your heart and head, tenere queste due idee, perché le ha fatte tutte queste dicotomie, dentro di te, dentro il tuo, anzi ancora di più, dentro il tuo cuore, dentro la tua testa, alive and well, tenerle vive, e well, quindi crederci, tenerle vive, ma non per dire well, it will make you strong unless it drives you crazy. To drive somebody crazy, letteralmente guidare qualcuno pazzo, cioè far impazzire, quindi se non impazzisci sarai più forte. E poi cita un po' il nostro amato Steve Jobs. Questo stay hungry, prima dice stay hard, che vuol dire insomma sii sempre duro, quindi anche sicuro delle tue idee, e stay hungry, continua ad avere fame, stay alive. Sappiamo che to be alive vuol dire essere vivi, che è diverso da un concerto live, che è un concerto dal vivo. To stay alive, beh, ricordiamo anche la canzone dei Bee Gees, il film, stay alive, quindi mantieniti vitale. Poi un consiglio per quando loro andranno sul palco, perché lui si immagina che questi ragazzi che partecipano alla conferenza, questi giovani musicisti, siano tutti pronti poi a esibirsi. E qui c'è l'ultima contraddizione, l'ultima dicotomia, dice when you walk on stage tonight to bring the noise, e qui è carino perché non dice to bring the music, ma the noise, letteralmente il rumore, quindi come se è la cosa più importante, però è anche, chiamiamola anche un po' dissacrandolo, semplicemente rumore. Treat it like it's all we have, trattatela come se fosse tutto quello che avete, quindi di nuovo super estremo, e poi però ricordatevi, it's only rock and roll, alla fine insomma è solo rock and roll. Ha parlato anche dei musicisti di riferimento in questa conferenza, in questo speech, Bruce Springsteen, e ne ha citato uno che io amo in modo particolare. In Italia si conosce quasi solo per Pretty Woman, ma era un grandissimo rocker, scomparso purtroppo molto presto. Bruce Springsteen ha parlato di Roy Orbison. Then, into my 13-year-old ears came 60s pop, Roy Orbison. Besides Johnny Cash, he was the other man in black. He was the true master of the romantic apocalypse you dreaded and knew was coming after the first night you whispered, I love you, to your new girlfriend. You were going down. Roy was the coolest, uncool loser you'd ever seen. With his Coke bottle black glasses, his 3-octave range, he seemed to take joy sticking his knife deep into the hot belly of your teenage insecurities. Beh, Roy Orbison non aveva l'aria da figo, e infatti lo dirà Bruce, perché aveva questi occhiali a fondo di bottiglia. Era un tipo un po' strano, un po' particolare, che però aveva colpito l'attenzione di un Bruce Springsteen giovanissimo. Io tra l'altro non mi ricordo in quale canzone, ma c'è questa line, Roy Orbison singing for the lonely, quindi Roy Orbison che suona per le persone sole. Comunque lui dice, nelle mie orecchie di tredicenne, in my 13-year-old ears, e qui notate sempre che sono 13, ma year non è al plurale, è così che si fa quando si indica l'età, quindi 13-year-old ears, non 13-year-old ears. E quindi insomma arriva il 60s pop, perché Bruce c'ha i suoi anni, non li dimostra ma ce li ha, non lascia la scena live come fanno tanti suoi coetanei, e appunto arriva Roy Orbison. Lui lo cita insieme a Johnny Cash, perché erano due personaggi molto particolari dell'epoca. Purtroppo anche Johnny Cash è mancato qualche anno fa. Aveva una caratteristica Roy Orbison, e ci scherza un po' sopra il boss. Sì, forse appunto povero Bruce ha avuto anche lui tanti problemi di cuore, tante volte il suo cuore è stato spezzato, perché lui dice era quello che meglio sapeva interpretare o farti capire che stava arrivando, poteva arrivare la romantic apocalypse, quell'apocalisse romantica dei sentimenti. You dread it, ne avevi un terrore pazzesco, but you knew it was coming, che sarebbe arrivata insomma tutte le volte che you said I love you to your new girlfriend, cioè sapevi che insomma le storie d'amore a quell'età poi sono estreme, e spesso intuisci che non saranno le prime, non sono quelle poi della vita. E poi arriva la definizione più carina di Roy Orbison che io abbia mai sentito. Sì, quindi was the coolest uncool loser, quindi in realtà lui era un loser, un perdente, uncool per di più, cioè proprio uno sfigato, però in questo era coolest, in questo era il più figo di tutti. E poi sembrava che, insomma, in qualche modo ci godesse a far soffrire. Ovviamente sta ridendo il boss e i suoi ascoltatori, magari appunto tredicenni come lui. C'era qualcosa che veramente, cioè, lui riusciva ad andare al cuore di questi dei ragazzi dell'epoca, anche delle ragazze, sono sicura. Quindi to take joy, appunto avere piacere, provare piacere nel fare qualcosa. Sticking a knife vuol dire far entrare il coltello deep, molto in profondità, in questa pancia, into the belly. Belly è un modo simpatico di dire pancia, delle tue teenage insecurities. E chi di tutti noi siamo stati teenagers, tutti noi abbiamo ricordi di quelle insicurezze. Ecco, Roy Orbison le metteva in musica e in parole per noi. Dobbiamo salutare il boss perché è finito il nostro tempo radiofonico per questa settimana. Ringrazio Pietro Lacorte in regia. Vi ricordo l'appuntamento con English 24 in edicola da Marta Cagnola e Giulia Crivelli. L'augurio di una buona serata.